Nel 1960 la pubblica sicurezza, l'attuale Polizia di Stato, era formata da 75.000 uomini, di cui 45.000 inquadrati militarmente nella Scellere e nella Mobile, mentre i Carabinieri e la Guardia di Finanza potevano contare complessivamente su 180.000 uomini. I prefetti erano 64, di cui 62 erano stati funzionari durante il fascismo. I viceprefetti erano 241 e tutti avevano fatto carriera durante il regime fascista. Gli ispettori generali di pubblica sicurezza erano 10, di cui 7 avevano operato sotto il regime fascista. I questori erano 135, di cui 120 erano entrati nella polizia sotto il fascismo. Alla fine di marzo, il democristiano Fernando Tambroni, avvocato quasi sessantenne, attivo sostenitore di una politica di legge ed ordine, venne incaricato dal Presidente della Repubblica Gronchi di formare il governo ed il 29 aprile Tambroni ottenne la fiducia al suo governo monocolore democristiano con i voti e l'appoggio esterno determinanti del Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista che vedeva tra le sue file molti gerarchi della Repubblica di Salò e dei monarchici. I ministri appartenenti alla sinistra della DC, Bo, Pastore e Sullo, si dimisero in disaccordo con questa alleanza con i neofascisti. Nell'aprile del 1960 la popolazione di Livorno si scontrò contro i paracadutisti, acquartierati nelle caserme della città. Tra il 19 e il 22 aprile 1960 si verificarono a Livorno violenti scontri tra la popolazione e i paracadutisti della divisione Folgore, che erano odiati dai livornesi, soprattutto per le simpatie fasciste, in particolare degli ufficiali e dei sottufficiali, che inculcavano alla truppa un'ideologia gerarchica anticomunista e per l'atteggiamento provocatorio nei confronti della popolazione che i parà avevano in città. Gli scontri culminarono il 20 aprile in Piazza Grande, di fronte al Caffè Gambrinus. La Scellere intervenne pesantemente contro i giovani livornesi. Livorno aveva una storica tradizione antifascista e si era sempre scontrata contro simili provocazioni anche durante il fascismo. A giugno venne convocato il congresso nazionale dell'MSI a Genova il 2, 3 e 4 luglio 1960. Quanto la cosa fosse provocatoria lo dimostra la scelta di Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, e che era insorta nel luglio 1948 dopo l'attentato a Togliatti, rimanendo in mano al popolo armato per 2 giorni. Inoltre, il congresso dei fascisti si terrà al Teatro Politeama Margherita, a 2 passi dal sacrario dei caduti partigiani. Come se non bastasse, Tambroni nomina Lutri, questore di Genova, che durante il fascismo era stato capo della squadra politica di Torino ed era noto per avere arrestato durante la Resistenza numerosi esponenti partigiani di Giustizia e Libertà. Solo 15 anni erano passati dalla liberazione dal nazifascismo in Italia. Ascoltiamoci quindi una canzone partigiana, Fiore Rosso e Fucile. Fiore Rosso e Fucile, viva la libertà! Era il 25 aprile, si rifà la società. I padroni sono morti, i fascisti impiccati. La giustizia degli insorti, libertà per gli sfruttati. Proletari al potere, non c'è più la schiavitù, dalle fabbriche al quartiere non si servirà mai più. Ho sognato per 20 anni e più quel 25 aprile, ricordo della mia gioventù vissuta col fucile, finché di quegli anni ancora la rossa ricorda di quegli anni ancor la rossa libertà. Ma ci dissero al partito, sotto con la produzione, il conflitto è ormai finito, non si fa rivoluzione. Cerimonie e deputati, a che serve aver lottato? Il fascismo può parlare, democratico è lo Stato. Sono passati tanti anni, sfruttamento ed elezioni, due promesse, cento inganni, mentre vincono i padroni. Ho sognato per 20 anni e più quel 25 aprile. Ricordo della mia gioventù vissuta col fucile, finché dal popolo in servitù si leva un canto e va, e riporta di quegli anni ancor la rossa libertà. E riporta di quegli anni ancor la rossa libertà. Ho sentito alzarsi un grido, si ritorna ad essere classe. Nelle piazze a 100.000 si ritrovano le masse. Sono giovani compagni per spazzare via i fascisti. Ci riportano i 20 anni, siamo tutti comunisti. Sole rosso di mattina, per il padrone non c'è domani, si farà lotta continua, siamo tutti partigiani. Ho sognato per 20 anni e più quel 25 aprile. Ricordo della mia gioventù vissuta col fucile, finché dal popolo in servitù si leva un canto e va, e riporta di quegli anni ancor la rossa libertà. E riporta di quegli anni ancor la rossa libertà. Appena arrivata la notizia della convocazione del congresso del Movimento Sociale a Genova, i partiti antifascisti iniziarono una campagna antifascista, affiggendo in tutta la città un manifesto a caratteri cubitali dove si poteva leggere «Miss fascismo, nazismo, nazismo, camere a gas» ed un altro in cui era scritto «Genovesi, ricordate Dachau, Gusen, Oswiecin, ricordate Mauthausen, Belsen, Auschwitz». Ricordate il quarto braccio di Marassi, la casa dello studente, ricordate Gravasco, la Benedicta, Portofino. I primi erano stati campi di sterminio nazista, gli altri luoghi di tortura e gli ultimi località di eccidi di popolazione da parte di tedeschi e fascisti. Il 15 giugno si svolse una prima manifestazione a Genova, a cui parteciparono più di 20.000 persone per protestare contro il congresso dell'MSI. Nella zona di via San Lorenzo si registrarono i primi scontri tra manifestanti e un gruppo di neofascisti. Il 19 giugno l'MSI tentò di inaugurare una sua sede a Chiavari. La risposta della popolazione fu immediata. Migliaia di lavoratori bloccarono la strada dove avrebbe dovuto aprirsi la sede, nella quale rimangono chiusi dentro 5 fascisti e venne impedito agli altri di potervi arrivare. Il 20 giugno il giornalista Vittorio Gorresio attribuisce a Tambroni un tentativo di colpo di Stato e rivela alcuni particolari come la sorveglianza a cui è sottoposto il presidente Gronchi, con la scusa del pericolo di attentati e soprattutto l'esistenza di nutriti dossier su tutti gli avversari politici di Tambroni, dentro e fuori la DC. Si tratta dell'operazione Ippocampo, un tentativo di instaurazione di un regime autoritario portato avanti dal governo in carica dell'ex centurione della milizia fascista Fernando Tambroni. Il 24 giugno a Genova un comizio convocato dalla CGIL viene vietato dalla questura. Il 25 giugno venne convocato uno sciopero generale dei portuali genovesi che sfilano dal porto fino al Sacrario dei Partigiani, mentre una delegazione si recò in prefettura a protestare contro la convocazione del congresso. Contemporaneamente centinaia di professori ed assistenti dell'Università di Medicina, Scienze e Fisica sospendono gli esami e si recano in corteo alla casa dello studente che era stata sede delle camere di tortura delle SS. Un altro comizio e relativo corteo con un migliaio di partecipanti venne organizzato dalle sezioni giovanili dei partiti antifascisti. Quando il corteo giunse all'altezza di via 20 Settembre, la celere lo caricò con caroselli di camionette utilizzando manganelli e lacrimogeni. La reazione fu immediata, con lanci di pietre. Scontri tra la forza pubblica e i giovani si susseguirono in tutte le strade che si diramano da via 20 Settembre. I caroselli si infittiscono e si protraggono per qualche ora. Alle ore 20 gli scontri continuano ancora. Il 28 giugno, in un comizio a Genova davanti a 30.000 manifestanti, Sandro Pertini disse: «Non fa bisogno che quelle autorità si affannino molto, ve lo dirò io, signori, chi sono i nostri sobillatori. Eccoli qui, eccoli accanto alla nostra bandiera. Sono i fucilati del Turchino, della Benedicta, dell'Olivetta e di Cravasco. Sono i torturati della Casa dello Studente che risuona ancora delle urla strazianti delle vittime, delle grida e delle risate sadiche dei torturatori. Nella loro memoria, sospinta dallo spirito dei partigiani e dei patrioti, la folla genovese è scesa nuovamente in piazza per ripetere no al fascismo». Il Movimento Sociale nel frattempo annunciò che Carlo Emanuele Basile avrebbe presieduto il congresso fascista. Basile, l'ex prefetto repubblichino di Genova, che fece deportare 1.500 operai in Germania durante la Repubblica di Salò, oltre ad essere uno dei più odiati torturatori di partigiani. Era stato inoltre sottosegretario alle forze armate durante il fascismo. Fu graziato per ben due volte, prima dalla Cassazione e poi con l'amnistia Togliatti. Ed ora ascoltiamoci Bufera del gruppo I Giardini di Miró. Sangue del nostro sangue, che è sangue di noi tutti. Gli occhi dei compagni si sono tenuti asciutti. Sangue del nostro sangue, che è sangue di noi tutti. Sia ben chiaro quello che non vedi, è sangue che non butti. Ed uguale la canzone che resta da cantare, morti di tutti i morti, uscite dalla fossa con noi. Per quelli che sono stanchi, incerti, in questi giorni mesti, morti di tutti i morti, come un tempo sull'Italia intera. Soffia il vento, fa che sia bufera. Thank you. Morti di tutti i morti, su queste parole, come un tempo una schiera. Soffia il vento, fa che sia bufera. E allora se sapera, morti di tutti i morti, morti nel vento, nelle parole, morti nelle canzoni. Soffia il vento, fa che sia bufera. Il 30 giugno venne proclamato lo sciopero generale a Genova. La mattina migliaia di donne portarono una gran quantità di fiori al sacrario dei caduti della Resistenza. Alle 15 tutto il popolo genovese scese nelle strade. Si formò un corteo lungo chilometri di 100.000 lavoratori che dai vicoli del porto e dalla cinta dei quartieri industriali, da San Pier d'Arena, da Voltri, da Conegliano, da Bolzaneto, da Sestri Ponente, invase il centro. In piazza un sindacalista della Camera del Lavoro invitò la folla a disperdersi dopo il comizio, ma nessuno gli ubbidì. Anzi, i lavoratori risalirono indietro in corteo via 20 Settembre e in piazza dei Ferrari circondarono 5 camionette della polizia. La celere attaccò la folla, prima con gli idranti, poi con i lacrimogeni e i caroselli. I manifestanti risposero con lanci di pietre, bottiglie, tavole e sedie, assi di legno dei cantieri edili, in scontri che si estesero a tutto il centro. I camalli usarono il gancio, l'attrezzo usato nel lavoro per scaricare le merci dalle navi, per fermare le jeep della celere, per agganciare al volo i celerini che caricavano, per bloccare i mezzi e distruggerli, dandogli poi fuoco. Con questo sistema di autodifesa furono oltre 30 le camionette distrutte e una cinquantina i celerini catturati che, disarmati, furono gettati nella fontana di Piazza dei Ferrari. Anche un ufficiale della polizia venne gettato nella vasca. Fu anche acceso un rogo per bruciare i mitra sequestrati alle forze dell'ordine. Gli scontri si estesero nei vicoli, dove i mezzi delle forze dell'ordine non potevano entrare ed erano facile preda della collera popolare che rovesciava dalle finestre su di loro qualsiasi cosa. Dai celerini furono esplosi colpi d'arma da fuoco e un giovane rimase ferito. Anche dai tetti alcuni poliziotti spararono con armi da fuoco, mentre un elicottero della polizia coordinava e dirigeva le operazioni. In piazza Dante venne eretta una barricata formata da varie auto in sosta. Più di 100 agenti rimasero feriti e contusi. Vennero feriti anche una sessantina di dimostranti, 50 i lavoratori arrestati. Alle ore 20 gli scontri continuavano con immutata intensità. La questura allora convocò i dirigenti dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che iniziarono a girare con i megafoni invitando a cessare gli scontri. La folla, ancora una volta, non ubbidì subito, perché aveva la percezione di un tradimento o di un tranello, ma poi vide che la celere si stava ritirando. Solo a questo punto, lentamente, i dimostranti iniziarono a tornare a casa. Il giornale Vie Nuove del 9 luglio 1960 scrisse: «Vidi un giovane, quasi un adolescente, con quella sua maglietta di cotone a righe vivaci e i blue jeans stretti sulle anche sottili, che si avventò mulinando un asse contro due agenti e li costrinse a ripararsi contro il muro. Un altro giovane magro, gli occhi infuriati dietro le lenti da studente, si buttò addosso a un questurino e gli strappò il manganello. Poi, mentre gli agenti indietreggiavano, cominciò, nella nebbia azzurrina lasciata dai gas lacrimogeni, la lotta a distanza con i sassi. Da mani giovani, per lo più, partivano quei sassi». In moltissime città italiane si svolsero scioperi e manifestazioni contro il governo. A Torino e a San Ferdinando di Puglia ci furono scontri con la polizia. Per il 2 luglio venne proclamato lo sciopero generale, la data in cui avrebbe dovuto iniziare il congresso dell'MSI. Il giorno prima, Portoria, un quartiere popolare del centro di Genova, venne bloccata da un triplo sbarramento di filo spinato. In piazza De Ferrari i cavalli di Frisia impedivano l'accesso ai cantieri edili. Carabinieri, agenti e guardie di finanza presidiavano gli edifici pubblici. Il teatro Margherita, dove si sarebbe dovuto svolgere il congresso dell'MSI, era presidiato dalla polizia, insieme a tutte le strade adiacenti. Tre compagnie motorizzate bloccavano la cintura intermedia della città. Rinforzi di carabinieri affluirono da tutte le città del Piemonte e numerosi battaglioni di celerini vennero chiamati da varie città d'Italia. In totale affluirono a Genova 7.000 tra poliziotti e carabinieri ed avevano ricevuto l'ordine testuale di sparare sui manifestanti. Alla Camera il presidente del Consiglio Tambroni confermò che il congresso si sarebbe fatto. Ma tutta Genova, nella notte tra il 1 e il 2 luglio, scese ancora una volta in strada. C'era un clima preinsurrezionale. 20 trattori, alla testa di una colonna proveniente da Portoria, avanzarono per abbattere gli sbarramenti di filo spinato con cui la polizia aveva isolato Piazza De Ferrari e Via 20 Settembre. Nella notte, inoltre, si erano confezionate centinaia di bottiglie Molotov. Nelle zone industriali circostanti si erano ricostruite le vecchie formazioni partigiane armate, pronte a scendere in città. Nei quartieri del porto si erano costruite barricate alte 2 metri. Circa 500.000 lavoratori erano mobilitati. La prefettura aveva diramato alle 22 del 1 luglio un comunicato secondo cui, stante l'ubicazione del Teatro Margherita e la difficoltà di garantire la sicurezza dei congressisti, metteva a disposizione dell'MSI il Teatro Ambra di Nervi. Ma l'MSI non accettò. I primi delegati missini vennero respinti alla stazione da gruppi di lavoratori che l'avevano occupata. Solo all'alba del 2 luglio il governo revocò all'MSI il permesso di tenere il congresso, ottenendo dai partiti, fra virgolette, di sinistra e dai sindacati la garanzia del mantenimento dell'ordine. Nei giorni della rivolta vennero arrestati 98 manifestanti, di questi 23 erano ancora detenuti il 19 agosto, quando iniziò il processo che si concluderà con molti anni di reclusione. Ed ora ascoltiamoci una canzone dal titolo 7 anni fa. 7 anni fa, luglio infuocato, Tambroni l'uomo di quel momento, grazie. innanzi ai fascisti stava al governo e meditava un colpo di stato. Luglio 60, solo ricordi per chi ha scordato. Bandiera rossa, lo vive ancora fin dentro l'ossa. Chi scende in piazza in questi giorni? Poliziotti, manganelli, c'è la carica, gli idranti, camionette, caroselli, qui ci sfascian tutti quanti. M'hanno preso, è andata male, sono il solito coglione, avrò il resto alla centrale, il processo, la prigione. Boom economico, il padronato con ogni mezzo corre al guadagno, per tutto questo ho urgente bisogno che l'operaio sia imbavagliato. I socialisti vanno al governo, lavano i panni dei pesce cani, la congiuntura sarà un inferno per chi lavora, non per quei ladri. C'è lo sciopero ai cancelli, sempre lì la polizia, camionette, caroselli, Dio che botte, andiamo via. M'hanno preso, è andata male, sono il solito coglione, avrò il resto alla centrale, il processo, la prigione. Anche stavolta ne siamo usciti con il sistema che ha preso fiato, i socialisti già inseriti indeboliscono il sindacato. Luglio 60, bunda operetta, la congiuntura centro-sinistra, resta il coltello, c'è un'altra forchetta, per noi c'è sempre la stessa minestra. Poliziotti, manganelli, c'è la carica, gli idranti, camionette, caroselli, qui ci sfascian tutti quanti. Negli stessi giorni ed in quelli seguenti centinaia di località in tutta la penisola scesero in lotta. All'inizio di luglio si mobilitò Palermo con uno sciopero generale a cui parteciparono 20.000 operai. I negozi chiusero. Alcuni autobus guidati da Crumiri vennero immobilizzati e messi fuori uso. Gli operai occuparono i punti nevralgici del centro. Ci furono violenti scontri con la polizia che sparò in aria. Un maresciallo che aveva estratto la pistola fu disarmato e picchiato dai lavoratori. Gli operai bloccarono l'arcivescovado e la prefettura. Il 5 luglio a Ravenna i fascisti incendiarono la casa di Arrigo Boldrini, presidente dell'ANPI. Sempre il 5 luglio venne proclamato lo sciopero generale a Licata, in Sicilia. Anche qui i negozi rimasero chiusi, così come gli uffici, le banche e gli esercizi pubblici. Tambroni fece affluire a Licata un'intera brigata di carabinieri, oltre a vari reparti della polizia dalle città vicine. La manifestazione di strada raccolse tutti i lavoratori dei dintorni e si protrasse per tutta la giornata. I treni in transito vennero bloccati alla stazione da 6.000 persone sdraiate sui binari. Molte barricate vennero innalzate nelle strade che attraversavano la cittadina. Iniziarono gli scontri con la polizia e i carabinieri che si estesero in tutta la cittadina. Verso le 20 la polizia circondò con un cordone il centro e iniziò a sparare ad altezza d'uomo sui manifestanti, causando un morto, 5 feriti gravi e molti feriti leggeri. La folla non si disperse e gli scontri proseguirono per tutta la notte. Il ponte di ferro sul fiume che collega la città alla strada statale fu distrutto e un'auto della polizia venne data alle fiamme. Il 6 luglio, a Porta San Paolo, a Roma, venne indetto un comizio. La questura inizialmente lo autorizzò, ma successivamente revocò l'autorizzazione, poco prima dell'inizio, quando ormai la folla stava già affluendo in piazza. La polizia a cavallo caricò il corteo che stava arrivando a Porta San Paolo. La folla reagì e la polizia iniziò a lanciare lacrimogeni e ad usare gli idranti. I lavoratori improvvisarono barricate e con i sassi respinsero la polizia. Gli scontri si allargarono alle vie adiacenti. Dalle finestre la popolazione gettò sugli agenti bottiglie e vasi di fiori. La polizia allora iniziò ad entrare nelle case e ai poliziotti si affiancarono squadre di fascisti. Gli scontri si protrassero sino a notte inoltrata. Durante gli scontri venne ferito l'agente Antonio Sarappa, che morì circa 2 mesi dopo. La sera del 6 luglio la CGIL di Reggio Emilia, che fino ad allora era stata contraria a manifestazioni politiche, dopo una lunga riunione proclama lo sciopero cittadino. Il 7 luglio venne indetto un comizio, ma l'unico spazio concesso dalla questura fu la Sala Verdi, 600 posti, troppo piccolo per contenere i 20.000 manifestanti che si raccolsero nella piazza antistante. I dirigenti sindacali chiesero alla polizia di poter installare degli altoparlanti in piazza, ma la richiesta venne respinta. Alcuni motociclisti attraversarono la piazza con dei cartelli su cui era scritto «Via il governo Tambroni» e «Abbasso i fascisti». La folla applaudì e iniziò a intonare canti partigiani. La polizia continuò ad assediare a lungo la piazza e le vie adiacenti in attesa di un pretesto qualsiasi per iniziare le cariche. Alle 16 la questura decise di attaccare e fu dato ordine di disperdere gli scooteristi coi cartelli. Nel giro di pochi secondi partono cariche e lacrimogeni e nella piazza invasa dal fumo la gente corre tra idranti e caroselli riparandosi nelle strade circostanti. Anche i carabinieri, al comando del tenente colonnello Giudici, partecipano alle cariche. Un sindacalista gridò: «Cittadini, lo sciopero è riuscito in tutta la provincia, né cerchiamo né vogliamo disordini», ma le sue parole furono sommerse dagli scoppi dei lacrimogeni sparati dalla polizia e dai carabinieri sulla folla. La questura di Reggio Emilia aveva ricevuto precise disposizioni da Roma in merito all'atteggiamento da tenere durante lo sciopero generale. L'ordine era di arrivare in assetto di guerra e di, testuale, dare una lezione ai manifestanti. Gli agenti, malgrado anche l'uso degli idranti, vennero respinti da una nutrita sassaiola. Un grosso camion dei carabinieri venne incendiato dai dimostranti. La polizia iniziò a sparare con armi da fuoco ad altezza d'uomo, prendendo la mira. 5 manifestanti rimasero a terra morti ed altri 19 vennero feriti da armi da fuoco. Dalle registrazioni fatte allora si sente distintamente una voce che urla «Sparate nel mezzo!». Il primo a cadere fu Lauro Farioli, muratore di 22 anni che era uscito di casa con pantaloni corti, una camicetta rossa e le ciabatte ai piedi. Venne colpito in pieno petto mentre si lanciava incredulo della barbarie a cui stava assistendo, verso la polizia in un disperato tentativo di fermarli. Un ragazzo testimoniò: «Ha fatto un passo o due, non di più, e subito è partita la raffica dei mitra. Io mi trovavo proprio alle sue spalle e l'ho visto voltarsi, girarsi su se stesso con tutto il sangue che gli usciva dalla bocca. Mi è caduto addosso con tutto il sangue». Poi venne ucciso Marino Serri, 40 anni, operaio ed ex partigiano della 76esima SAP. Venne ucciso anche Ovidio Franchi, operaio di 19 anni. Fu prima ferito all'addome. Quindi si aggrappò ad una serranda mentre un compagno cercò di soccorrerlo, ma un agente sopraggiunse e con freddezza sparò su entrambi, uccidendo Ovidio. Era figlio di un operaio delle officine meccaniche reggiane. Dopo la scuola di avviamento industriale era entrato come apprendista in una piccola officina della zona. Nel frattempo frequentava il biennio serale per conseguire l'attestato di disegnatore meccanico. Un altro martire di Reggio Emilia fu Emilio Reverberi, 39 anni, anche lui operaio ed ex partigiano della 144esima Brigata Garibaldi ed era stato licenziato perché comunista nel 1951 dalle officine meccaniche reggiane, dove era entrato all'età di 14 anni. Abitava a Reggio Emilia, nelle case popolari, con la moglie e i due figli. Infine viene ucciso Afro Tondelli, operaio di 35 anni, anche lui ex partigiano della 76esima SAP, assassinato da un poliziotto inginocchiato e concentrato nel prendere la mira. Gli spari si susseguirono per 40 minuti. Furono sparati 182 colpi di mitra, 14 di moschetto e 39 di pistola. Nonostante tutto ciò, gli scontri continuarono ancora per 2 ore. Pasquale Alvarez, uno dei feriti, riporterà in seguito: fischiavano le pallottole da tutte le parti. Era tremendo, indescrivibile. La folla, per fuggire alle cariche forsennate delle camionette che inseguivano la gente sotto i portici, mi ha spinto verso via Crispi. Credevo che sparassero in aria. Poi ho visto un ragazzo cadere. Più tardi ho saputo che era Ovidio Franchi. Ma nonostante gli spari, gli scontri continuarono. Ne furono protagonisti più giovani che continuavano a resistere. Uno di loro disse: «La macchina del sindacato girava tra i tumulti e l'altoparlante ci invitava a lasciare la piazza, che la manifestazione era finita. Ma noi non avevamo alcuna intenzione di ritirarci. Qualcuno incitava addirittura alle barricate. Non avremmo sgomberato la piazza almeno fino a quando la polizia non spariva. Non paghi delle strage fatta in piazza, gli agenti si schierarono poi di fronte agli ospedali per impedire ai donatori di sangue di accedere alle strutture e costringendoli quindi a nascondersi a bordo di ambulanze fingendosi feriti». Drammatica anche la testimonianza del chirurgo Riccardo Motta. «Ricordo nitidamente quelle terribili ore. Ne passammo 12 di fila in sala operatoria. Arrivava gente in condizioni disperate. Sembrava una situazione di guerra. Non c'era tempo per parlare. Mentre cercavamo di fare il possibile, avvertivamo pesantissimi l'apprensione e il dolore dei parenti». Al funerale dei 5 assassinati parteciparono 150.000 persone. Il vicequestore Giulio Cafari Panico, accusato di omicidio colposo plurimo, e l'agente Orlando Celani, imputato dell'omicidio volontario per aver sparato ad Afro Tondelli, vengono entrambi assolti nel 1964, il primo per non aver commesso il fatto, il secondo per insufficienza di prove. Successivamente gli eredi di Afro Tondelli e Lauro Farioli chiamarono in giudizio il Ministero dell'Interno per il risarcimento dei danni che nel 1978 fu condannato a pagare 178 milioni di lire di risarcimento ai parenti in quanto responsabile di aver cagionato la morte delle vittime. E quindi ascoltiamoci una canzone di Fausto Amodei, Morti di Reggio Emilia, nell'interpretazione degli Stormy Six. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi. Per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa. Nello stesso giorno ci furono altri scontri e altri feriti a Napoli, Modena e Parma. Lo stesso 7 luglio la CIA portò a termine un piano di unificazione della massoneria italiana che porta gran parte delle logge massoniche italiane sotto l'influenza diretta di quelle statunitensi. In una cerimonia che si svolge a Roma, il ministro delle finanze Trabucchi riconsegna a Palazzo Giustiniani alla massoneria del Grande Oriente d'Italia, alla presenza dell'ambasciatore americano Zeller Bache e del dirigente della CIA Frank Gigliotti. Sempre nel 1960 i fratelli americani, attraverso l'opera dell'instancabile Gigliotti, impongono l'unificazione del Grande Oriente d'Italia con il supremo consiglio della Serenissima Gran Loggia degli Alam del principe siciliano Agliata di Montereale, che Pisciotta aveva tirato in causa a proposito della strage di Portella delle Ginestre e il cui nome riaffiorerà nei tentativi di colpi di Stato di Junio Valerio Borghese e della Rosa dei Venti. Venne proclamato uno sciopero generale nazionale per l'8 luglio, dalle ore 14 alle ore 24. Grandi manifestazioni si svolsero a Genova, Milano, Torino, Livorno, Pisa, Pistoia, Ancona, Napoli, in tutta l'Umbria. Si manifestò anche in Sicilia, a Enna, Messina, Caltanissetta, Agrigento. A Firenze la manifestazione venne caricata dalla polizia. A Palermo, dove la manifestazione è imponente, un drappello di carabinieri si schierò minaccioso davanti alla testa del corteo dei manifestanti. Un commissario con la fascia tricolore intimò: «Fermatevi in nome della legge!» Gli rispose Pompeo Colaianni, il comandante partigiano barbato: «Quale legge?» La celere quindi caricò pesantemente. La folla si difese con sassi e paletti di legno. I manifestanti eressero barricate. Fu tentato l'assalto al palazzo del comune. Poi carabinieri e agenti iniziarono i rastrellamenti, sparando con armi da fuoco sui manifestanti. Si contarono tra i manifestanti 3 morti. Francesco Vella, 42 anni, mastro muratore e organizzatore delle leghe edili, che stava soccorrendo un ragazzo di 16 anni colpito da un colpo di moschetto al petto. Giuseppe Malleo, 16 anni, apprendista edile e militante della Gioventù Comunista. Andrea Gangiano, 18 anni, venditore ambulante di Manzetti di Gelsomino. Rosa La Barbera, 53 anni, casalinga, colpita da un proiettile mentre stava chiudendo le persiane del suo balcone. I feriti da proiettili sparati dalla forza pubblica furono 36. Tra la polizia i feriti furono 72, 400 furono i lavoratori arrestati. Anche a Catania si manifestò l'8 luglio. Nel pomeriggio carabinieri e poliziotti caricarono il corteo. iniziarono gli scontri, furono innalzate le barricate con materiale da costruzione. A questo punto la polizia sparò anche qui, con pistole e fucili, causando un morto. Salvatore Novembre, giovane lavoratore edile di 20 anni, venne massacrato a manganellate. Si accasciò a terra sanguinante, poi un poliziotto gli sparò addosso ripetutamente. Venne lasciato a morire dissanguato al centro della piazza. Le autorità imbastiranno successivamente una macabra montatura, disponendo una perizia necroscopica al fine di, testuale, accertare ove sia possibile se il proiettile sia stato sparato dai manifestanti. Altri 7 manifestanti rimasero feriti, ma gli scontri proseguirono sino a tarda notte. Alle 23 vi fu un altro ferito grave. Mentre tutto ciò accadeva in Italia, si tennero grandi manovre della NATO. Truppe paracadutate e aviotrasportate parteciparono alle esercitazioni, mentre unità navali di vari paesi attraccarono nei porti di La Spezia, Venezia e Trieste. Qualche giorno dopo il governo Tambroni cadde e gli succederà un governo monocolore democristiano diretto da Fanfani, con l'appoggio esterno socialista per la prima volta nella storia del dopoguerra. Ad agosto, nel loro rapporto finale sulla missione in Italia, Luther Smith e George Bushnell scrivono: «I fratelli italiani sono avviati verso la riunificazione di tutta la comunità massonica ed hanno sottoscritto i protocolli aggiuntivi che prevedono l'impegno anticomunista». La massoneria italiana proclama Frank Gigliotti Gran Maestro Onorario a vita e rappresentante per l'Italia alla Conferenza Massonica di Washington. Come abbiamo potuto constatare, nel 1960 in Italia ci fu un tentativo di dare a questo paese una svolta autoritaria, ma quella volta il tentativo fallì, grazie alla decisa reazione popolare, soprattutto dei giovani, che purtroppo costò ben 11 morti. Per chi volesse approfondire, consiglio questi libri. Il quinto volume di Proletari senza rivoluzione di Renzo Del Carria, di Francesco Gandolfi A Genova non si passa, di Alessandro Benna e Lucia Compagnino 30 giugno 1960 La rivolta di Genova, di Renato Niccolai Reggio Emilia 7 luglio 1960. Ci sono inoltre in rete diversi siti che raccontano le vicende del luglio 60, come quella di InfoOut. Si conclude anche qui questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!